significa è guardare più lontano e perdersi in se stessi. La luce che rinasce, coglierne i riflessi. Su, pianure azzurre si aprono. Spaziano, ed io mi accorgo che tutto intorno a me, a me, musica è. Danza regolare di tutti i tuoi respiri su di me, la festa dei tuoi occhi appena sorridi. Tu, il suono delle labbra tue, tu sempre di più, l'armonia raggiunta in due. Ascolterò perché sei musica per me. Sento ancora le voci della strada dove son nato. Mia madre quante volte mi avrà chiamato, ma era più forte il grido di libertà. E sotto il sole che fulmina i cortili, le corse polverose dei bambini che di giocare non la smettono più. Io sento ancora cantare in dialetto le ninne nanne di pioggia sul tetto. Tutto questo per me, questo dolce arpeggiare è musica da ricordare, è dentro di me, fa parte di me. Cammina con me. forse cambierà. Nella testa della gente la mentalità di chi ascolta ma non sente, prima che il silenzio scenda su ogni cosa, quel silenzio grande dopo l'aria esplosa. Perché un mondo senza musica non si può neanche immaginare. Perché ogni cuore, musica. Musica. Musica.